Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Valentine rimase sola. Suonò la mezzanotte. Quindi, a eccezione del rotolare di qualche carrozza lontana, tutto ricadde nel silenzio. «Valentine!» disse una voce sommessa. La ragazza fremette fino in fondo al cuore, ma non rispose. «Valentine!» ripeté la stessa voce. Il medesimo silenzio. Valentina aveva promesso di fingersi addormentata. Poi tutto rimase immobile. Valentine udì soltanto il rumore impercettibile di un liquido versato nel bicchiere che aveva appena vuotato. Allora osò, al riparo del braccio steso, socchiudere le palpebre e vide una donna, in accappatoio bianco, che vuotava nel suo bicchiere il liquido contenuto in una fiala. In quel breve istante Valentine forse trattenne il respiro o, senza rendersene conto, fece un movimento, poiché la donna, inquieta, si fermò e si chinò sul letto per assicurarsi che dormisse realmente. Era la signora di Villefort. Valentine, nel riconoscere la matrigna, fu presa da un violento fremito che scosse il letto. La signora di Villefort si addossò al muro e là, nascosta dietro le cortine del letto, muta e attenta, spiò ogni minimo movimento di Valentine. Questa si ricordò delle terribili parole di Montecristo. Le era sembrato di veder brillare nella mano che non teneva la fiala una specie di coltello lungo e affilato. Allora, chiamando in soccorso tutta la sua forza di volontà, si sforzò di chiudere gli occhi. Ma quella funzione del più timoroso dei nostri sensi, quella funzione di solito così semplice, le diveniva in quel momento quasi impossibile da compiersi. Tanto era forte in lei il desiderio di conoscere la verità. Rassicurata dal silenzio, nel quale si udiva soltanto il respiro regolare e tranquillo di Valentina addormentata, la signora di Villefort allungò nuovamente il braccio e, rimanendo parzialmente nascosta dietro le cortine del letto, terminò di vuotare nel bicchiere di Valentina il contenuto della fiala. Quindi si ritirò senza il minimo rumore. È impossibile descrivere ciò che Valentine provò in quel minuto e mezzo che la signora di Villefort rimase nella sua camera. Il raschiare di un'unghia sul legno dello scaffale la tolse da quello stato di torpore nella quale era precipitata e che rassomigliava ad uno stordimento. Sollevò la testa a stento. La libreria, sempre silenziosamente, girò una seconda volta sui cardini e il conte di Montecristo ricomparve. «Avete visto?» domandò il conte. «Ahimè, l'avete riconosciuta?» «Sì», disse Valentine mandando un gemito. «Ma perché dunque mi perseguita in tal modo?» «Come? Siete così buona, così dolce, così incredula del male che non avete capito, Valentine?» «No», disse la ragazza, «io non le ho mai fatto del male». «Ma voi siete ricca, Valentine. Avete 200.000 lire di rendita che togliete a suo figlio». «Edouard, povero bambino, ed è per lui che si commettono tanti delitti. Capite finalmente? Mio Dio, purché tutto questo non ricada su di lui. Siete un angelo, Valentine». «Signore», gridò la ragazza sciogliendosi in lacrime, «quando è così, vedo bene che sono condannata a morire». «No, Valentine, no, poiché ho previsto tutto. No, perché la nostra nemica, essendo scoperta, è vinta. No, voi vivrete, Valentine. Vivrete per amare ed essere amata. Vivrete per essere felice e per rendere felice un cuore nobile. Ma, Valentine, per vivere dovete avere piena fiducia in me». «Ordinate, signore, che cosa devo fare?» «Bisogna che prendiate ciecamente ciò che vi darò». «Ebbene, signore, disponete di me», disse Valentine. Quindi soggiunse a bassa voce: mio Dio, che accadrà mai di me?» «Qualunque cosa accada, Valentine, non spaventatevi. Se soffrite, se perdete la vista, l'udito, il tatto, non temete nulla. Se vi risvegliate senza sapere dove siete, non abbiate paura, anche se doveste, svegliandovi, trovarvi in un sepolcro e chiusa in una bara. Richiamate subito il vostro coraggio e dite a voi stessa: in questo momento un amico, un padre, un uomo che vuole la mia felicità e quella di Maximilien, veglia su di me. La pendola suonò le 8. Allora l'infermiera, meravigliata del sonno ostinato di Valentin, spaventata da quel braccio penzoloni fuori dal letto, si avvicinò alla dormiente e soltanto allora notò quelle labbra fredde e quel petto gelido. Voleva riportare il braccio vicino al corpo, ma il braccio era di una rigidità spaventosa, sulla quale un'infermiera non poteva ingannarsi. Mandò un orribile grido, quindi correndo alla porta. «Aiuto!» gridò. «Aiuto! Come aiuto?» chiese dal fondo della scala il signore d'Avrigny, che era giunto in quel momento. «Come aiuto?» gridò la voce del signore di Villefort, uscendo precipitosamente dallo studio. «Dottore, avete sentito chiamare aiuto?» «Sì, sì, saliamo!» rispose il dottore d'Avrigny. «Saliamo, presto!» «Viene dalla camera di Valentin! Chiamate la signora di Villefort! Svegliate la signora di Villefort!» gridò il procuratore del re alla porta della camera, nella quale sembrava non osasse entrare. Ma i domestici, invece di rispondere, guardarono il signor d'Avrigny, che, entrato, era corso da Valentin e la sollevava tra le sue braccia. «Anche lei!» mormorò, lasciandola ricadere. «Oh mio Dio! Mio Dio! E quando vi stancherete?» Villefort si precipitò nella camera. «Che dite? Mio Dio! Che dite, dottore? Che dite?» «Dico che Valentina è morta», rispose il signore d'Avrigny con voce solenne e terribile nella sua solennità. E il signore di Villefort stramazzò, come se le sue gambe si fossero spezzate, e cadde con la testa sul letto di Valentin. In quel momento la signora di Villefort, con il braccio infilato a metà nell'accappatoio, sollevò la sovrattenda. Per un momento rimase sulla soglia, in atto di interrogare gli astanti e chiamando in suo aiuto alcune lacrime ribelli. Ad un tratto fece un passo, o piuttosto un balzo, con le braccia tese verso il comodino. Aveva visto d'Avrigny piegarsi con curiosità su di esso e prendere il bicchiere che era certa di aver vuotato durante la notte. Il bicchiere era pieno per un terzo, proprio com'era quando ne aveva gettato il contenuto nella cenere. Lo spettro di Valentin, ritto davanti all'avvelenatrice, non avrebbe prodotto minore effetto su di lei. Di fatto, era quello il colore della bevanda da lei versata nel bicchiere di Valentin e da questa bevuta. Era quello il veleno che non poteva ingannare l'occhio del signor d'Avrigny, il quale lo stava attentamente esaminando. Era quello un miracolo che senza dubbio faceva Dio affinché restasse, malgrado tutte le precauzioni, una traccia, una prova, una testimonianza del delitto. Mentre la signora di Villefort era rimasta immobile come una statua, mentre Villefort, con la testa nascosta nelle lenzuola del letto funebre, non vedeva nulla di quanto accadeva intorno a lui, d'Avrigny si avvicinava alla finestra per meglio esaminare il contenuto del bicchiere e, intingendo un dito, ne assaggiò una goccia. «Ora non è più la brucina», mormorò. «Vediamo che cos'è». Corse a uno degli armadi della camera di Valentin trasformato in farmacia e, sfilando dal suo astuccio d'argento una boccetta di acido nitrico, ne lasciò cadere alcune gocce nel liquido azzurrognolo che d'un tratto si tramutò in color sangue vermiglio. «Ah!» fece d'Avrigny con l'orrore del giudice che scopre la verità e con la soddisfazione dello scienziato che risolve un problema. La signora di Villefort si volse un istante. I suoi occhi lanciarono fiamme, poi si spensero. Cercò, vacillando, la porta con la mano e uscì. Un momento dopo si udì il tonfo di un corpo. Ma nessuno vi fece caso. L'infermiera era occupata a guardare l'analisi chimica e Villefort era annichilito dal dolore. Il signore d'Avrigny soltanto aveva seguito con lo sguardo la signora di Villefort e aveva notato la sua uscita precipitosa. Sollevò la sovratenda della camera di Valentin e attraverso quella di Edouard poté vederla nel suo appartamento che giaceva, priva di sensi, sul pavimento. «Andate a soccorrere la signora di Villefort!» disse all'infermiera. «Si sente male!» «Ma la signorina Valentin!» balbettò questa. «Valentin non ha più bisogno di soccorso», disse d'Avrigny. «Valentin è morta». Thank you. Morta, dite? Gridò una voce. Chi ha detto che Valentine è morta? Villefort e d'Avrigny si voltarono e sulla porta videro Morrel dritto in piedi, pallido, sconvolto, terribile. Chi siete voi, signore? Disse Villefort. Voi dimenticate che non si entra così in una casa abitata dalla morte. Uscite, signore, uscite! Ma Morrel restava immobile, senza poter staccare gli occhi dal terribile spettacolo di quel letto in disordine e dalla pallida figura che giaceva sopra. Fuori! Fuori! Gridò Villefort mentre d'Avrigny si avvicinava per far uscire Morrel. Questi guardò smarrito il cadavere, i due uomini, la camera. Sembrò esitare un momento, aprì la bocca, infine, non potendo pronunciare parola malgrado la moltitudine di funesti pensieri che affollavano la sua mente, retrocedette cacciandosi le mani fra i capelli, in tal modo che Villefort e d'Avrigny, per un istante distolti dalle loro preoccupazioni, scambiarono, dopo averlo seguito con gli occhi, uno sguardo che voleva dire «è folle». Ma trascorsi 5 minuti, si udì scricchiolare la scala sotto un peso considerevole e si vide Morrel che, sollevando con una forza sovrumana fra le sue braccia la poltrona di Noirtier, portava il vecchio al primo piano della casa. Giunto in cima alla scala, Morrel posò la poltrona a terra e la spinse rapidamente fino alla camera di Valentin con una forza decuplicata dalla sua frenetica esaltazione. Spaventosa soprattutto era la figura di Noirtier, che si avvicinava al letto di Valentin spinta da Morrel, figura la cui intelligenza dotata di grandi risorse era espressa dagli occhi che supplivano alle altre facoltà che erano venute meno. Il suo viso pallido, dallo sguardo fiammeggiante, fu per Villefort una spaventosa apparizione. Ogni volta che si era incontrato con suo padre, era sempre accaduto qualche cosa di terribile. «Guardate che cosa le hanno fatto!» gridò Morrel, appoggiato ancora con una mano allo schienale della poltrona che aveva spinto contro il letto e con l'altra stesa verso Valentin. «Guardate! Padre mio, guardate!» Villefort arretrò di un passo e guardò con meraviglia quel giovane a lui quasi sconosciuto che chiamava padre Noirtier. In quel momento tutta l'anima del vecchio sembrò concentrarsi nei suoi occhi, che si iniettarono di sangue. Quindi gli si gonfiarono le vene del collo. Un colore bluastro come quello di un epilettico gli coprì il collo, le guance, le tempie. Non mancava a quella esplosione interna di tutto l'essere che un grido. E quel grido proruppe, per così dire, da tutti i pori, spaventoso nel suo mutismo, dilaniante nel suo silenzio. D'Avrigny si precipitò verso il vecchio e gli fece annusare un violento revulsivo. «Signore!» gridò Morrel afferrando la mano inerte del paralitico. «Domandano chi sono io e quale diritto ho di essere qui!» «Oh, voi che lo sapete, ditelo, ditelo!» E la voce del giovane si spense in un singhiozzo. «Dite!» continuò Morrel con voce strozzata. «Dite che ero il suo fidanzato! Dite che era la mia nobile amica! Il mio solo amore sulla terra! Dite! Dite! Dite che questo cadavere mi appartiene!» E il giovane, dando il terribile spettacolo di una grande energia che si spezza, cadde in ginocchio davanti a quel letto che strinse violentemente con le dita contratte. Quel dolore era così penetrante che d'Avrigny si voltò per nascondere la sua emozione e Villefort, senza chiedere altra spiegazione, tese la mano al giovane. Ma Morrel non vedeva nulla. Stringeva la mano gelida di Valentin e, non riuscendo a piangere, mordeva le lenzuola quasi ruggendo. Per qualche tempo in quella camera non si sentirono che singhiozzi, imprecazioni e preghiere, dominati dalla respirazione rauca e straziante del petto di Noirtier. Finalmente Villefort, più padrone di sé, prese la parola. Signore, disse a Maximilien, voi amavate Valentin, dite, eravate suo fidanzato. Io ignoravo questo amore, ignoravo questo impegno, eppure io, suo padre, vi perdono, poiché, lo vedo, il vostro dolore è grande, reale, vero. D'altra parte anche in me il dolore è troppo grande perché nel cuore mi resti posto per la collera. Ma voi lo vedete. L'angelo che speravate di possedere ha lasciato la terra. Non sa più che fare delle adorazioni degli uomini. Lei, che a quest'ora adora il Signore. Dite dunque addio alla triste spoglia. Stringete un'ultima volta la mano che aspettavate e separatevi da lei per sempre. Valentin non ha più bisogno ora che del prete che la benedica. Vi sbagliate, signore, gridò Morrel rialzandosi su un ginocchio con il cuore trafitto da un dolore più acuto di quanti ne avesse provati fino ad allora. Vi sbagliate. Essendo Valentin morta in questo modo, non ha bisogno soltanto di un prete, ma ha bisogno anche di un vendicatore. Che volete dire? Mormorò Villefort tremante per questa nuova esplosione di delirio. Voglio dire, continuò Morrel, che in voi esistono due uomini, signore. Il padre ha pianto abbastanza. Ora il procuratore del re cominci la sua opera. Gli occhi di Noirtier sfavillarono. D'Avrigny si avvicinò. Signore, continuò il giovane cogliendo negli occhi di tutti gli astanti i sentimenti che si risvegliavano sul loro volto. So quello che dico, e voi sapete bene, al pari di me, tutto ciò che sto per dire. Valentin è morta assassinata! Villefort abbassò la testa. D'Avrigny si avvicinò ancora di un passo. Noirtier assentì con gli occhi. Ora, signore, disse Morrel con una veemenza sempre crescente, bando alla pietà! Io vi denuncio il delitto, cercate l'assassino! E il suo occhio implacabile interrogava Villefort, che dal canto suo sollecitava uno sguardo ora da Noirtier, ora da D'Avrigny. Ma invece di trovare soccorso in suo padre nel dottore, Villefort non trovò in essi che uno sguardo inflessibile come quello di Morrel. «Signore», replicò Villefort, tentando di lottare ancora contro quella triplice volontà e contro la propria emozione. «Signore, vi sbagliate». Non si commettono delitti in casa mia. La fatalità mi colpisce. Dio mi prova. È un pensiero orribile, ma in casa mia non si assassina nessuno. Gli occhi di Noirtier fiammeggiarono. D'Avrigny aprì la bocca per parlare. Morrel stese il braccio imponendo il silenzio. E io vi dico che qui si uccide! Gridò Morrel, abbassando la voce ma senza perdere la terribile intonazione. Vi dico che questa è la quarta vittima che si colpisce in 4 mesi. Vi dico che si è già provata una volta, 4 giorni fa, ad avvelenare Valentin e che questo tentativo fallì grazie alle precauzioni prese dal signor Noirtier. Vi dico che fu raddoppiata la dose, ho cambiato il veleno e che questa volta ci si è riusciti. Vi dico infine che voi sapete tutto ciò quanto me, poiché il signore qui presente vi ha già avvisato. E come medico, e come amico. Oh, voi delirate, signore! Disse Villefort, tentando invano di liberarsi dal cerchio che lo stringeva. Io deliro! Gridò Morrel. Mi appello al signor D'Avrigny stesso. Domandategli, signore, se si ricorda ancora delle parole che ha pronunciato nel vostro giardino, nel giardino di questo palazzo, la sera stessa della morte della signora di Saint-Méran, quando entrambi, voi e lui, vi credevate soli. Discorrevate di quella tragica morte nella quale la fatalità di cui parlate e Dio, che accusate ingiustamente, non hanno altra colpa se non quella di avere creato l'assassino di Valentin. Villefort e D'Avrigny si guardarono. Io pure, disse D'Avrigny con voce decisa. Io pure mi unisco al signor Morrel per domandarvi giustizia del delitto, poiché il mio cuore si ribella all'idea che la mia vile compiacenza abbia incoraggiato l'assassino. «Oh, mio Dio», mormorò Villefort, annientato. «Osservate», disse Morrel, Il signor Noirtier vuole parlare. Noirtier rivolse all'infelice Morrel un malinconico sorriso e lo fissò più intensamente. Quindi, avendo per così dire inchiodato gli occhi del suo interlocutore ai suoi, guardò verso la porta. «Volete che io esca?» chiese Morrel. Noirtier fece segno di sì. «Volete restare solo con il signor di Villefort?» «Sì». Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it